Il punto di Stefano Folli. È sempre più chiaro che sul palcoscenico della nostra politica si vanno schierando due gruppi variegati. Nel primo ci sono coloro che in modo più o meno convinto sono disposti a battersi per le riforme. L'arrivo di Matteo Renzi in questo schieramento non dovrebbe provocarne la dissoluzione, come spera qualcuno, ma al contrario costituire una spinta, una specie di turbo. Nel secondo gruppo ci sono tutti gli altri, da Grillo ai Forconi, per semplificare, passando per gli intransigenti di Forza Italia. Vogliono le elezioni subito, non vogliono l'Europa della moneta unica, si sforzano di mobilitare la piazza. Sono ormai due blocchi abbastanza definiti e il 2014 sarà l'anno del confronto decisivo, come ricordava Napolitano. Il rischio è che il conflitto degeneri in disordini, come i segnali di questi giorni fanno temere. L'opportunità è che prevalga il buon senso, specie in chi, come il partito di Berlusconi, ha esercitato per anni i ruoli istituzionali e non può aver dimenticato del tutto il passato dopo la condanna in tribunale del leader.